boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. No. Adesso capo, non cominciare, capo. Sei andato a capo, scusa, non si va a capo dopo ragione, bentornati a Chiedo Asilo, perché c'è allora, un saluto da capo, quindi bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da capo, ecco qui va bene, e un saluto da Drago, adesso potevi farlo, vabbè. No, sei andato tu, allora, vabbè. Che devi andare a capo. Prima di cominciare il programma vero e proprio vorrei fare una citazione, sai, sì. Quando si fa un exergo si dice così, exergo, sì, non lo so. Lo dici tu, quindi si mette la frasetta prima dell'inizio del libro. Io questa frasetta la tiro fuori da un articolo letto su di Repubblica. L'articolo invita ad, due punti, sì, virgolette aperte, questa è la citazione, apprezzare il lato green dell'antietà. Cos'è? Non lo so, è una citazione. C'è chi cita Oscar Wilde, chi cita Montaigne, chi cita La Rochefoucauld. E tu citi? Di Repubblica. Bravo. E quindi ti invito ad apprezzare il lato green dell'antietà. Era un titolo. Sì, a me sembra una stronzata più che un titolo. Comunque passiamo alle cose serie, cioè la Xbox completamente senza fili, senza controller, senza dicendo? Niente. Io non so niente, per me questa Drago, cosa. Allora adesso la Xbox, anche lei si è lanciata, cioè ci sono le console per giocare. Le c'è Wii. La PlayStation, c'è la Wii e c'è la Xbox. Quella che giochi a tennis con la... Quella lì è la Wii, cioè quella che tu non hai un controller che dove con le freccettine ci vai su. Hai tu proprio... muovi questo, questo spada laser nell'aria, la telecamera del videogioco sta zitto, che non sai niente, quindi non cercare di andare a indovinare. Te lo spiego bene. Ma c'è un avatar tuo. Ma che avatar? Allora, sì, c'è l'avatar, ma tu non è che hai l'avatar in mano. In mano hai il controller. Hai capito? Tu controlli l'avatar. Sì, con un controller. Ma la novità è che la Xbox adesso ha fatto lo stesso sistema di gioco fisico, diciamo, però ha evitato anche il controller. Quindi tu semplicemente ti muovi davanti al televisore e lui ha una cosa intelligentissima, telecamera super raffinata, che carpisce i tuoi movimenti. Interagisce. E quindi il tuo avatar o quello che è, insomma, agisce. Però in tu vedi sempre l'avatar. Schermo. Ma tu lo vedi di fronte o lo vedi di spalle? Perché io già io mi perdo facilmente. No, perché cose. Io so perché per me il videogioco è una cosa che poi dopo alla fine si avvicina al mondo dell'erotismo. E quindi vuoi sapere questi dettagli del davanti o dietro. No. Ma Drago, lascia stare. No, perché tu non sai cosa ti perdi con i videogiochi. Tra l'altro, anche per l'erotismo ci sono delle cose interessanti. Perché possono fare partite a distanza, hai capito? C'è un amico, anzi, meglio, un'amica per te dall'altra parte del mondo che ti sfida. Ma a cosa? Non ho capito. Al gioco in questione. Drago, è fantascienza questa, vabbè. Capito? Potrebbe essere che poi a furia di giocare al giochino dei leoni che saltano le staccionate, poi magari nasce un'amicizia con questa qua dall'altra parte del mondo. Ma capito? Perché puoi anche comunicare proprio. Con la Xbox puoi chattare, puoi fare come su internet. Sì, vabbè, ma sono tutti ragazzini, quindi che storie erotiche vuoi che escano fuori? Aspetta, bacini, le robe lì. Devi chiederlo al tredicenne del Maryland che grazie o per colpa della chat della Xbox si è trovato a letto con una 36enne che è volata dalla California al Maryland tutta infogliata per fare il sesso con lui. Una vera MILF californiana che ti arriva a casa solo perché giochi con la Xbox. Sì, una MILF californiana che se non sta attenta va in galera. Per colpa dell'Africa. No, per colpa del Maryland. Anche il sesso con minori è punito severamente in America, come come dappertutto. Sì, ma sai com'è? Poi si possono aggiustare le cose. Tu fai un matrimonio riparatore e buon. È vero. Chi se la ricordava più questa buona regola di buona educazione di una volta? Ma certo, ma la soluzione di tutto sta sempre nel caro e vecchio matrimonio riparatore. Anche il bambino Sarkozy, la bambina Carla Bruni, si sono fatti vedere insieme, che si pacioccavano un po', ma appena si sposano. Giusto. Per evitare tutti i sposano. E quindi questa MILF californiana è a posto, deve solo sposarsi. La signora Hicks deve solo sposarsi col suo tredicenne, va lì. Ma guarda che anche il bambino premier è a posto. Scusa, si sposa con Ruby, mette tutti a tacere. Sì, però lui dovrebbe sposare un intero residence di ragazze tutte assieme, sia mica in Arabia Saudita. Come un residence? Cioè un edificio catastato. Cioè, vuole lei, residence di Olgettina, prendere il qui presente Silvio Berlusconi? Chiedo asilo! E ora, bambini, ricreazione! Hai una banana nell'orecchio. Eh? Hai una banana nell'orecchio. Eh? Hai una banana nell'orecchio! Ma non ti sento, ho una banana nell'orecchio. Toglitela. Ah. Ecco, cosa c'è? Niente, c'è la ricreazione. Lo so che c'è la ricreazione, è importante che tu lo sappia. La ricreazione è importante. Sì, perché adesso capita a caso, invece dovrebbe essere la regola. La cosa? La ricreazione. Invece le ore dove ti insegnano l'eccezione, capito? Cioè, ho capito. Siamo all'asilo, Drago, qui dovrebbe essere sempre ricreazione, ogni tanto due o tre pausette di 10 minuti in cui si insegnano le cose. Vabbè, invece il contrario, capa, quindi rassegnati. E oltretutto noi durante la ricreazione dobbiamo lavorare, quindi altro che le pausette. Appunto, ma ti sembra normale? Ma capa, è fondamentale interpellare i bambini veri, quelli in carne e ossa, scusa, perché va bene parlarne per ore e ore, siamo sempre qui che ne parliamo, però alla fine sono i bambini che dovrebbero dire la loro. Sì, ma alla fine parliamo sempre solo con lo stesso. Chi può essere io? Ecco, bambino Alberto, ti materializzi da sotto le nostre ginocchia come se spuntassi dal nulla. Guardalo. Per forza, voi siete due pertiche, io sono un soldo di cacio. Un soldo di cacio, soldo perché non si dice così? Vabbè, sì, forse 100 anni fa, tu non sai nemmeno cos'è un soldo di cacio, quindi... Eh no, non lo so, e chi è sto cacio? Vabbè, infatti. No, ma non è il... vabbè, non importa. Vabbè. Uè, a proposito, avete visto che su Facebook c'è un fan club del bambino Alberto? Ah sì? Su Facebook? Non lo sapevo, no? Eh sì, cari. E non mi risulta che ci sia anche una pagina di Facebook dei fan di Kappa e Drago. Boh, io non so niente, non so neanche usare Facebook, la pagina di fan, non so. Perché cos'è. Sei vecchio come Ligabue. Adesso non esageriamo, Ligabue ha almeno 10 anni vabbè, più di me, sì, Anche 20. Tito, dai, buono! Ma dai, sei sicuro che il bambino Alberto di cui ci sono i fan sei proprio tu? Perché guarda che di bambini Alberto che si chiamano come te ce ne sono migliaia in Italia. Un sacco di bambini Alberti. Non lo so. Allora, dai. La mia foto non c'è in effetti. Quindi, dai. Però, scusa, c'è scritto fan del bambino Alberto e parlano di me perché parlano dell'asilo e... mi sembra che parlano di me, quindi sono io. Allora, complimenti, tanti complimenti. Io non so neanche cos'è sta roba di Vabbè, Facebook. Bambino Albertino, fan. Già che ci siamo, dai, vogliamo spiegare a Kappa come funziona Facebook? Perché io ho provato tante volte e lui è sempre lì che dice ma non interessa sapere cosa fanno sti qua, chi sono? Ma è facile. Non capisci la differenza tra il home e il profilo, capito? Allora, spiegaglielo tu. Facebook è un posto dove uno tipo apre la sua casa, no? C'è una pagina di internet col tuo nome, Kappa, la foto se vuoi, l'anno di nascita, un po' di informazioni, se vuoi metti le foto... Tutto quello che vuoi, quello che ti piace, i film che ti piacciono, i libri che ti piacciono, e lì è il tuo profilo, no? E poi in Facebook sono milioni, che hanno i profili. Sì. Quindi, e lì ci fa gli amici, no? Cioè, tipo tu apri la tua pagina, mandi un messaggio a Drago, tipo, vuoi diventare mio amico? E a Drago arriva... Cioè, ma Drago a Drago arriva una mail che dice... Sì, lo so che ci conosciamo da 10 anni, però... Vuole diventare tuo amico su Facebook? Su Facebook, accetti? È un altro genere di amicizia. E tu decidi se accettare o meno. Lui accetta e diventate amici. Quindi, in quel momento, Drago entra nella tua pagina e vede i film che ti piacciono, i libri che ti piacciono, devo le foto che ci voce. No, però scusa, bambino Alberto, lui non capisce la home, capito? No, ma non ho capito niente. Quando comunque ci sono tutte, la home, tutte no. Il flusso di informazioni. Che tu vai sulla pagina del bambino Alberto, diciamo, e ci sono le informazioni del quinto amico di sesto grado del bambino Alberto che dice che a lui gli piace... Hello Kitty. No, poi è a posto dove ci si scambiano opinioni, no? Perché sulla home, nel tuo profilo, e lì c'è la gente che interviene, tutti gli amici che dicono oggi sto lavorando tanto, sono stanco. E tu rispondi, anch'io, ma tu cosa fai? Stasera andiamo al cinema. Mi piace questo film. A chi piace questo film? E altri, piace anche a me. È così. È tutto dei film, cos'è? No, vabbè, cosa? No. Diciamo film, per esempio, no? Sì, vabbè, ho capito, ma sta amicizia, cioè, quando senti in giro, siamo amici su Facebook, no? È un mio amico di Facebook. Perché su Facebook vi siete incontrati, no? Due si sono incontrati. Anche due che non si conoscono, capito? Non sono mai visti. Però si conoscono i loro profili, no? Capito? Domanda a cosa stai pensando così scrive. Magari poi vedi una ragazza che ti piace, la conosci, ti piacciono le fotografie, diventi amico, no? Così, Vabbè, quindi in pratica Facebook, come il 90% di internet, serve solo per... Cos'è quel gesto adesso? Cioè, non so cos'è quel gesto e so anche che alla radio non vengono bene i gesti e soprattutto non tradurre in parole quello che stai gesticolando. Ma che gesto è? Ecco, appunto, appunto, meglio che non lo sappia. Siamo all'asilo piuttosto che alla radio. Vedi, Tito, ecco, fa intervenire anche Tito. Vabbè, dai. Comunque io adesso devo cercarmi un agente, un procuratore. Ma cosa? Eh sì, perché devo rinegoziare il contratto con l'asilo e con la radio. Che contratto hai? Non ce l'hai? Ormai sono un personaggio, cioè ho anche la pagina dei fan su Facebook. Ma non è che posso accontentarmi delle pacche sulle spalle. No, però dai, così perdi di spontaneità. Devi restare bambino, devi restare il bambino che era il De Brest. Ma dai. Basta con le storpiature! Poi che era il De Brest! No, mi sembra che... No, è un film che i miei genitori dicevano... È un film di Fassbinder! Sì. E fa speed, fa i film. Cosa? Truci, vabbè. E sono dei personaggi un po' equivoci. So. È un marinaretto, insomma. Comunque, anche per questa storia delle storpiature, me la vedrete col mio agente, Io non mi chiamo Kerel e nemmeno Brest. Vabbè, Brest però un po' sì, dai. Io mi chiamo Alberto. Oh. Alberto! Ricconi, e mandate i vostri nanana nanana alternativi a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.